s'aspetta e si picchia, carezzerà amore. E passa una carrozza. Pietrangelo, un po' di musica del lunedì. La musica del lunedì, Ivan Segreto, Porta Vagnu, perché non so se lo sapete, è possibile gettare una lenza in un pianoforte a coda aperto, coglierne un fiore e prendersi le carezze d'amore. Oh. Ivan Segreto. Non è possibile. A ricominciare. Ha ricominciato lui, ma adesso ricomincia la quota, musica, la quota rosa. Sara Tardelli. Eccomi. Allora, volevo raccontarvi, anzi ricordarvi questo. In Nepal gli Sherpa muoiono purtroppo come mosche per un tozzo di pane. Infatti 16 guide sono state travolte da una valanga il 18 aprile e adesso scioperano per avere riconosciuti i diritti minimi sul lavoro. Allora oggi ho detto, a proposito di Sherpa senza diritti, anche l'Italia ha i suoi 3,5 milioni di lavoratori in proprio e senza dipendenti. Quindi mi sembra che per le partite IVA la strada sia un po' in salita, diciamo come i pendii dell'Everest. Però ho sempre letto che con calma, forse quest'estate, iniziano i controlli proprio su di noi, sulle partite IVA, perché bisognerà pur capire quali sono regolari e quali irregolari. Insomma, oggi l'hashtag per me è Siamo Tutti Sherpa e dedico a tutte le partite IVA questa canzone. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più fretta, insegui la tua storia ovunque vada. Mario, che cosa bolle in pentola oggi? Ce ne sono di cose. Sì, vabbè, questa è la mia. Sono gli indimenticabili Buggles, Video Kill the Radio Star, pezzo pop bellissimo del 79, capostipite della musica degli anni 80. In ogni caso vorrei rassicurarvi, cari amici, la TV non ci ha ucciso, siamo qua, siamo in radio, quindi siamo a posto, direi, no Pietrangelo? Certo, a postissimo siamo. A postissimo. E allora, visto che siamo a postissimo, caro amico Buttafuoco, dica. Allora, ha rinunciato alla partita del cuore. E vabbè, ma stamattina parliamo di Matteo. Lui. Solo lui. Ma chi, Salvini? Sì, certo, Salvini. Butta fuori. Cugino sveglio. Grande, Matteo Renzi. Adesso non va ad Amici. Non va ad Amici perché no, non lo stamattina. Vogliono. No, stamattina. No, pare che abbia rinunciato. Ho letto questa agenzia dove dicono che i vertici Mediaset non vogliono. Dicono no a Maria De Filippi. Ma. I guai saranno quando Maria De Filippi dirà no ai vertici Mediaset. ma guarda che pare che ci sia una circolare, anzi sicuro c'è una circolare a Gcom che vieta certe apparizioni durante la campagna elettorale. Insomma è la par condicio. Io vi dico la verità, a me sembra tutta una cosa, cioè, questa par condicio così non funziona. Beh, non ha nessuna funzione, era nata per una ragione e adesso non si sa più come gestirla. Io vi propongo questa par condicio, sì. Per ogni volta che dite Matteo, io dirò Salvini. Va Matteo. Bene. Okay. Salvini. Matteo. E se dico Renzi, tu cosa dici? Matteo? Oh yes. Bond. James Bond. Oh, e veniamo a Bond, però non il grande personaggio letterario creato da quel genio che fu Ian Fleming, ma alle obbligazioni. Apple sta per lanciare la seconda emissione obbligazionaria della storia. Sono 17 miliardi di dollari, serviranno per finanziare varie operazioni, tra le quali pure il riacquisto di azioni. Tutto bene? Sì. E no, nel senso che Apple è una potenza, però tu dirai non avevi meglio da fare. Vabbè. Mi sono letto gli ultimi dati che Apple ha depositato alla borsa americana, alla commissione di controllo. E che cosa esce? Ma i bilanci sono ottimi ovviamente, c'è una crescita forte dei ricavi eccetera, però se vai a vedere, se poi vai a scorporare modello per modello, ti accorgi che l'iPhone ha rallentato le vendite, che la crescita forte all'anno in Cina, Giappone, questi posti qua, e poi ci sono dei prodotti che stanno scomparendo letteralmente dal mercato, che pure assicuravano un fatturato molto forte, per esempio il glorioso iPod sul quale molti di noi hanno ascoltato la musica ha ridotto le vendite al 52%. Torna il vinile. Sì, ho letto che torna, sì, il vinile. Il vinile ha un mercato. Il vinile oggi vende più di 20 anni fa. Pensa che cosa sta succedendo. Ora, il dilemma che si pongono tutti gli analisti è: dove sono i nuovi prodotti? Perché da quando Steve Jobs non c'è più, pace all'anima sua, di prodotti nuovi non è che ne abbiano tirato fuori tanti. Cioè, è come un sequel, una telenovela. Ti faccio l'iPad 1, l'iPad 2, l'iPhone 3, l'iPhone 4, l'iPhone 5, ma la killer application per nuova i prossimi 10-20 anni per adesso dov'è? Non si vede. Non si e intanto vede. Salamino. Altro che Diderot e D'Alembert. Silvio Berlusconi, intervistato da Barbara D'Urso a Domenica Live, ha dato una notizia straordinaria, cioè che Francesca Pascale, la fidanzata, è, dice lui, un'enciclopedia. Legge sempre per aumentare la propria istruzione. Dico una cosa, quello della destra è stato, della destra berlusconiana a maggior ragione, è stato certamente la storia di una catastrofe culturale. Ma no. Se la Pascale passa dal calippo al libro, rischia di diventare un cervellone e di passare quindi dal cia cia cia al rodo ta, ta, ta, ta, ta, ta. E quindi per evitare tutto ciò evoco il cia cia cia. Io galippo e tutto in grippo, se per caso dicono spatte via, fai a cazzer fino a che non te lo fa. Posso solo spezzo una lancia a favore di Rodotatatata? No. Tu sottovaluti il grande valore artistico della poesia di Sandro Bondi, che riempie quel vuoto culturale di cui tu ingiustamente stai facendo strame. Ma tu lo sai che invece Berlusconi ha convocato Alberto A. Sorrosa per una lettura critica delle poesie di Bondi? E com'è andata? Ovviamente una grande stroncatura, ma era nelle intenzioni, diciamo, del nuovo corso cultural-politico. Intanto, oggi, nella seconda ora di Mix 24, va in onda il racconto della storia, della vita del grande Arturo Toscanini. Arturo Toscanini è stato per i direttori d'orchestra quello che Paganini è stato per i violinisti. C'è stato un mito. Lui secondo me aveva qualche cosa di soprannaturale, io sono convinto. Un personaggio del genere non era, tra virgolette, normale. Beh, che facciamo? Allora? Senti qua. Che meraviglia. Senti, il coro dell'Armata Rossa. Come vanno le cose in Ucraina, Pietrangelo? C'è la guerra. C'è la guerra. No. Un po', sì. Tu, Giovanni, come la vedi? C'è la guerra, c'è il sangue. Io penso che non ci sarà la guerra. E c'è la memoria. Io credo che non ci sarà la guerra, guerra, guerra. C'è. Beh, insomma, c'è la guerra, un po' di guerra civile, certo. Gli strateghi chiamerebbero questo un conflitto a bassa intensità. A bassa intensità. Però in realtà, insomma, la guerra vera è economica. Noi l'avevamo detto, ti ricordi Giovanni, ricordi Pietrangelo? Non si gioca a fare le rivoluzioni in Ucraina, parlo dell'Europa e degli Stati Uniti, se non sei pronto a pagare. E infatti ora c'è un problema, si chiama Russia, e non sarà facile. Non sanno cosa fai con le nuove sanzioni, perfino all'interno della Casa Bianca sono divisi, si parla di azione unilaterale addirittura, appunto, degli Stati Uniti. Si vedrà. Perché? Perché con l'Europa non è facile trovare un accordo. Noi abbiamo, europei, parlo ovviamente, non solo italiani, degli interessi molto forti. Pensate, il mercato delle case di lusso a Londra dipende dai russi. Hanno investito l'anno scorso 180 milioni di sterline e nel 2014 ne arriveranno ancora di più. Salamino. Benvenuti nella modernità, più figli alla patria. Così in Danimarca c'è un interessante pezzo oggi su Repubblica dove viene fuori un racconto veramente curioso e che svela a che punto siamo arrivati. Le agenzie di viaggio fanno un patto commerciale con le cliniche per incrementare le nascite. Allora c'è il cosiddetto ovulation discount, c'è un calcolatore di fertilità. Quando si va a prenotare la vacanza bisogna quindi dimostrare lo stato, diciamo, fisiologico delle cose. Ed è finita come i cavalli che vengono portati alla monta. Ovviamente non c'è bisogno di un certificato di matrimonio, però c'è il cortocircuito del political correct, si dice così? Vabbè, te lo passiamo. Grazie. Praticamente, dopo tutto sto manicomio per avere i figli, l'unica raccomandazione: non fate sesso senza protezione. Ah, che guaio, un po' d'anima latina occorre, urge, serve, e quindi con il grande Fellini e con la maschera meravigliosa di Peppino De Filippo e con il sontuoso décolleté di Anita Ekberg, bevete più latte. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età. Mix 24. Prima di andare avanti, un piccolo autocompiacimento e un ringraziamento a Riccardo Fusaro, che dice come farei ogni mattina senza Mix 24. Il resto è medioevo. La bolla. Volevo sapere se ti era rimasto un po' di... No, quelle cose che dicevi, cos'è, quelle tisane, lì, Tiglio, che era la... Ti ho capito al volo. Ti ho capito al volo. Sì. Questo si chiama Seralin Retard, cioè cessione graduale di chetazolam nell'arco di 24 ore. Copro tutto fino al delirio schizzato. No! Maledetto il giorno che t'ho incontrato, caro buttafuoco. Siamo rovinati. Senti, medicine, tu prima hai citato la Ekberg, vedete, più latte, eccetera. Io perché le medicine? Perché c'è in corso una trattativa per un enorme accordo commerciale, un acquisto da parte di Pfizer, quelli del Viagra, che si comprano il Rinocort, che serve a curare le malattie respiratorie. La Pfizer è pronta a lanciare un'offerta, pensate, del valore di 100 miliardi di dollari per il controllo di AstraZeneca. L'America che compra l'Inghilterra in questo caso. È interessante perché ci sono i fenomeni di concentrazione, come sapete tutti, nel settore farmaceutico. Continua, procede, ovviamente la strada è quella dell'innovazione. AstraZeneca è riconosciuta per la sua eccellenza nel settore della ricerca. Vediamo se chiudono l'accordo. Tutto questo naturalmente fa pensare, perché noi in Italia, che avevamo, forse è il caso di dire, una grande industria farmaceutica, siamo rimasti un po' al palo. Un pochino al palo. E intanto noi ci facciamo il canzoniere. Vedete quanto può il pelo di una femmina, due paladini che sono due pileri, per causanza della bella Angelica sono diventati due nemici fieri. Eccoli in campo, uno contro l'altro, che cercano di mangiarsi come lupi. Ma sono quasi tre giorni che combattono, e questa non è cosa d'opera di pupi. Questa che vi racconto è vera storia, scritta sopra dei fatti naturali da un cappuccino che campava all'epoca e vide uno di tutto tale e quale. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Se indovinate, è telefonate, facile, eh? Questo è facile. È facile. Professor Doglio, buongiorno. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Dunque, in Rai si sono arrabbiati moltissimo per la richiesta di 150 milioni di euro di risparmi da dare alla patria e soprattutto per la proposta di vendita di Rai Way. Ecco, ma lei come la vede? No, rido, mi scusi, perché effettivamente ogni volta che succede qualcosa del genere si alzano delle barricate che sono francamente... perlomeno fuori dal tempo. Un po' antistoriche. È come se fosse ancora la vecchia impostazione. Certo, le reti sono state molto importanti, il controllo delle reti nella storia della radiotelevisione, certo, è essenziale, ma è una cosa che è finita. È finita. Anni 90. Ma dice esattamente in due parole cosa vuol dire Rai Way? Ah, guardi, Rai Way fondamentalmente è una società controllata al 100% sì, da Rai, in cui Rai ha collocato la gestione della rete di torri, trasmettitori, sì, ripetitori, che da siti dello Stato diffondono il segnale televisivo, adesso digitale, sulle frequenze di cui il servizio pubblico ha, sì, ricordiamoci sempre, temporaneamente la concessione. Certo. Quindi nessuno è proprietario di nulla. No. RaiWay è proprietaria di un sistema di siti, di torri, di ripetitori, di macchine, hardware. Sì. Dal terreno che c'è sotto, immagino anche. Il terreno che c'è sotto spesso sono stazioni posizionate su proprietà dello Stato. Ecco. A volte per altre reti no, altre reti sono proprietà. Ecco, ma in Europa come si sono comportati le televisioni che fanno servizio pubblico come la BBC, France TV, o in Germania? È molto semplice, le grandi televisioni generaliste di servizio pubblico dalla metà degli anni 90 in poi, quando sotto la pressione del consolidamento della televisione commerciale hanno dovuto rifare i conti con se stessi in qualche modo, la prima cosa che hanno messo in vendita è stata proprio la rete, nel senso che hanno deciso di scorporarla e cederla perché serviva ad alleggerire la struttura di costo, serviva a fare cassa perché in quel momento c'era molta domanda da parte degli operatori di telefonia cellulare e soprattutto analizzando seriamente dal punto di vista strategico che cos'è l'attività televisiva, ci si è resi conto da un punto di vista economico che la cosa veramente distintiva è la capacità di costruire un'offerta, sono i contenuti e non il ferro. La diffusione è un mestiere da telecomunicazionale. Ecco, ma se invece la rete di trasmissione, che oggi la RAI controlla con RaiWay, fosse ceduta a operatori specializzati, ma che cosa cambierebbe, che cosa migliorerebbe? Si tratta di gestire ovviamente una transazione del genere al meglio, perché si tratta di guadagnare molti soldi, come hanno fatto gli altri servizi pubblici a suo tempo, e contemporaneamente firmare un contratto di servizio che garantisca a RAI l'utilizzo, certo, per le funzioni naturale televisive della rete. Però voglio dire, lei si ricorderà, perché come me ha una certa, certo, età, che già alla fine del secolo scorso, nel millennio scorso, Rai aveva fatto un accordo di vendita per cedere la sua rete e avrebbe passato, certo, anche alcune centinaia di milioni. Crown Castle. C'era anche l'operatore americano Crown Castle che l'aveva in qualche modo già comprata e che avrebbe supportato lui, lei mi chiedeva prima cosa cambi, i costi per il passaggio digitale terrestre tra 800 milioni e un miliardo che hanno speso sia Rai che Media per riportare. Li avrebbe pagati l'operatore americano. Che a sua volta avrebbe incassato da un utilizzo della rete anche, certo, per la telefonia cellulare, per la stessa roba. Quindi diciamo è un problema che non è un gran problema. Non dovrebbe essere un gran problema, però in termini di valorizzazione teniamo presente che c'è una notizia interessante di qualche settimana fa. Quando Fininvest ha completato il suo processo di ristrutturazione della rete, che prima era nelle mani di Elettronica Industrial, poi è stata in parte ceduta, poi riacquistata ed è finita dentro una società nuova di zecca che si chiama E-Towers, è storia di questi ultimi, certo, anni. Poche settimane fa Fininvest ha ceduto il 25% di E-Towers sul mercato e ha incassato 300 milioni. Guarda caso il doppio di quello che il governo Renzi chiede alla RAI. Allora forse non è poi una cosa così scandalosa, forse non riguarda necessariamente un asset fondamentale per la libertà di comunicazione. E forse si può fare. Si può fare, risanare in parte il bilancio RAI, certo, forse basta un po' di coraggio e meno pigrizia intellettuale, insomma, oppure no, insomma si può discutere. Insomma è una cosa che non è la fine del mondo, ecco. Direi proprio di no, ecco. È un'opportunità, deve essere vissuta come tale. Certo, è gestita come tale. In questo, esatto, momento il valore delle reti è diverso, il mercato è cambiato, però la prova viene da quello che ha fatto Fininvest. Grazie professore. Grazie professore. Domenico da Milano per il nostro canzoniere. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, alla risposta? Allora, secondo me è il combattimento di Orlando e Rinaldo di Nino Martoglio. Giusto, Feltrinelli. No. Domenico, dov'è lei? In ufficio, a casa, che fa? In questo momento mi sono messo di lato perché ero in macchina quando vi ho ascoltato. E dove sta andando? Sto andando al lavoro. Dove? In zona via Padova, io lavoro in una scuola di improvvisazione teatrale. Di improvvisazione teatrale? Ah, vedi che è a fare le domande giuste, si scoprono gli altarini, bravo, complimenti. Complimenti. Grazie. Grazie.